Ti ho conosciuta in un disco pub ed eri bellissima. Avevi però un solo difetto, un po' di cimurro a pois. Nel 2733, dopo poco ti ho rivista, e poi ho flagellato 27 cavallette fritte. Il tuo naso collodiano era un promontorio ontologico, c'erano anche un gufo reale, un nibbio ed un castoro. Dite, sei una donna o sei una zucca di Halloween? O dite, sei una donna o sei un falegname? O dite, sei una donna o sei uno spettro? O dite, sei una donna o sei un rococò? Sei per sei fa sempre 36.